Letture di Radio 24. Nel 1992 Francia ed Unione Europea approvano la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione. A quasi 20 anni di distanza, l'Italia è ancora alla fase preliminare. E ora, per difendere i lavori da estremisti e contestatori, si pensa addirittura di ricorrere all'esercito. L'Italia è quel posto dove per fare un buco ai piedi di una montagna diventa necessario chiamare l'esercito. Già in tempi non sospetti, la vicenda della TAV, la linea ad alta velocità Torino-Lione, si presentava come una buona rappresentazione di un paese bloccato, il nostro. Trattative estenuanti, proteste degli abitanti, tatticismi politici e, infine, la solenne decisione di aspettare. Non importa cosa, l'importante era stare fermi. In questi giorni la metafora si è rafforzata, attingendo anche al surreale. L'ultima soluzione per aprire il cantiere che dovrebbe poi scavare una galleria esplorativa per lo studio geologico dei luoghi dove poi, forse, tra un ventennio circa, dovrebbe passare la galleria di base del supertreno, è quella di militarizzare l'area. Siamo ancora ai preliminari di un'opera che venne approvata esattamente 20 anni fa da Italia, Francia e Unione Europea. Dall'altra parte delle Alpi, di tunnel come questo ne hanno già scavati 6. Negli anni hanno dovuto affrontare e sedare le frange ostili e ci sono riusciti, senza neppure ricorrere alla legione straniera. L'osservatorio tecnico istituito nel 2005 ha ridisegnato il tracciato, cercando e in molti casi trovando il consenso delle amministrazioni locali della Valsusa. La protesta non è più di massa, non coinvolge un'intera popolazione, ma c'è ancora e si è radicalizzata. Appena 2 settimane fa, dal presidio Notav, sono volati 120 kg di pietre sugli operai del cantiere e i poliziotti che li dovevano proteggere. Adesso il PD chiede la militarizzazione del sito, come avvenne per le discariche di Napoli, e il PDL si dice d'accordo. Il PD è lo stesso partito che nel 2009 tollerò gli accordi locali dei suoi candidati con i Notav, e il centrodestra, a Torino come a Roma, ha sempre mostrato un incomprensibile pudore sull'alta velocità. Negli ultimi anni, sia l'esecutivo di Romano Prodi che quello di Silvio Berlusconi si sono limitati a vaghe dichiarazioni di intenti, come se la Torino-Lione fosse una bega territoriale da rimandare a data da destinarsi e non una questione nazionale. Adesso il vuoto della politica dovrebbe essere riempito dalla soluzione militare. Per aprire il primo cantiere di un'infrastruttura fondamentale e approvata da ogni amministrazione, da Bruxelles fino a Chiomonte, il comune dove sorge l'area del futuro tunnel, ci si riduce al filo spinato e alle camionette dell'esercito. Magari è il minore dei mali, utile per evitare lo scontro con gli irriducibili, ma è anche la certificazione dell'eterno stallo italiano, un paese dove l'unico stato possibile sembra essere quello d'emergenza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Imarisio «Per la TAV ci vuole l'esercito, allora non siamo un paese normale», dal Corriere della Sera dell'8 giugno. Chi fa acquisti online è abituato ormai da tempo a leggere in molti siti di vendita per corrispondenza frasi del tipo «spedizioni in tutto il mondo tranne in Italia». Tra furti, ritardi e corrispondenza smarrita, le poste italiane non godono certo di buona fama. Ma quello che è successo nei giorni scorsi, con il nuovo sistema informatico già in tilt e migliaia di utenti in coda per ore negli uffici postali, evidenzia una mancanza di efficienza che non può essere risolta con delle semplici scuse. Negli ultimi anni Poste Italiane ha differenziato la propria attività nei campi più disparati, ma forse, come scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, sarebbe meglio che le poste si occupassero solo del servizio postale. Ricordate Paul Gray? Era direttore del Dipartimento delle Imposte britannico nel novembre 2007, quando un suo giovane dipendente spedì per corriere al National Audit Office 2 dischetti con i dati di 7 milioni di famiglie, mai giunti a destinazione. Senza fare una piega, pur non essendo materialmente responsabile dell'infortunio, e sebbene la disavventura non avesse avuto conseguenze, Gray rassegnò le dimissioni. Ma quello è il Regno Unito. Sappiamo invece come vanno le cose in Italia. Ci si può mettere la mano sul fuoco. Ai vertici delle poste nessuno si dimetterà per quello che è accaduto, anche se il guaio è decisamente più grosso, considerando gli effetti sugli utenti, di quello che aveva combinato involontariamente il giovane collaboratore di Gray. Si dirà che può sempre capitare, succede anche nelle migliori aziende private, verissimo. Se non fosse che qui ci sono andati di mezzo migliaia di pensionati. Le attenuanti, certo, non mancheranno, ma il caso, per certi versi incredibile, di un sistema informatico andato in tilt per giorni interi, non può non far riflettere ancora una volta sulla curiosa situazione delle nostre poste, i cui capi sono stati peraltro appena riconfermati. Un'azienda che ha dilagato in ogni campo, costruendo per partenogenesi una vera giungla societaria che conta una trentina di partecipazioni dirette. Le Poste Italiane si occupano di tutto. Telefonini, con Poste Mobile, voli charter, Mistral Air, assicurazioni, Poste Vita. Controllano perfino una società, Poste Energia S.p.A., che si occupa dell'approvvigionamento energetico del gruppo, senza per questo disdegnare il commercio. L'azienda del gruppo Poste Italiane, che si occupa della vendita di beni di consumo, è stata battezzata Poste Shop. Lo slogan? Un nuovo modo di fare shopping. Prendetevi la briga di scorrere il suo catalogo online. Ci troverete televisori, macchine fotografiche, attrezzi per la ginnastica, giocattoli, barbecue, forni a microonde, caffettiere, pentole, casalinghi, ferri da stiro, amache da giardino, libri, un emporio in piena regola a prezzi popolari. Ci fossero anche gli alimentari, potrebbe fare concorrenza agli ipermercati francesi. Non bastasse, sono anche impegnate in prima fila nella fantomatica Banca del Mezzogiorno, cui il ministro Giulio Tremonti vuole affidare il compito di sostenere gli imprenditori meridionali. Non vogliamo pensare che la frenesia della diversificazione di gran moda nelle imprese pubbliche fino a qualche anno fa possa in qualche modo essere corresponsabile dei disservizi. Domandarselo, però, è inevitabile, anche perché dalle poste gli utenti si aspettano innanzitutto che facciano, e bene, le poste. Come sarebbe il loro diritto pretendere controlli rigorosi da parte di un soggetto indipendente e dotato di poteri reali? Chi meglio dell'antitrust oppure dell'autorità per le comunicazioni? Ma che? Il compito è stato invece affidato all'Agenzia Nazionale di Regolamentazione del Settore Postale, un organismo istituito a velocità astronomica dal governo, che ne ha nominato gli organi con il bilancino tipico della spartizione politica. Veramente un ottimo viatico per gli utenti, che si potranno sempre consolare ogni volta che capiteranno disagi simili con le briciole della conciliazione, o magari con qualche buono sconto da spendere nei center Poste Shop. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Sergio Rizzo, Meglio che le poste facciano le poste, dal Corriere della Sera del 7 giugno. Cresce sempre di più il numero dei pentiti del tatuaggio, ormai 1 su 3, ma eliminarli comporta un procedimento lungo e non privo di rischi. Nel mondo sono circa 20 milioni le persone che hanno un tatuaggio, ma non sempre chi fa questa scelta le resta fedele per tutta la vita. Molti decidono di toglierlo e in Italia, come ha rivelato il chirurgo plastico Ezio Maria Nicodemi dell'Università di Roma Tor Vergata in occasione dell'International Tattoo Expo, il fenomeno del pentimento è in netta crescita e riguarda un tatuato su 3. A chiedere la cancellazione sono soprattutto gli uomini intorno ai 30 anni, generalmente per motivi legati al lavoro, mentre le donne che vogliono cancellare un tattoo più spesso sono guidate da ragioni sentimentali. Una terza categoria è quella dei rinnovatori, quelli che decidono di toglierne uno in un punto per farselo rifare in un altro. Spesso le persone riproducono sulla pelle qualcosa che vogliono ricordare o rendere indelebile, quasi a suggellare un legame, spiega la psicologa Silvia Pollastri, e quando questo si spezza, il tatuaggio diventa il ricordo di una perdita. La rimozione può quindi diventare una necessità impellente o, al contrario, un passo impossibile da affrontare. Oggi la metodica più utilizzata per la rimozione sono i laser Q-switched, che mettono impulsi nell'ordine dei nanosecondi. L'erogazione di altissime energie in tempi ultrabrevi rompe la molecola di inchiostro, spiega Roberto Gallossi, coordinatore del circuito nazionale del CICE, Centro Italiano di Chirurgia Estetica, e i frammenti vengono poi rimossi dai macrofagi, le cellule deputate a rimuovere le sostanze estranee che penetrano nella pelle, le stesse responsabili del naturale schiarimento dei tatuaggi negli anni. Per completare l'operazione ci vogliono di solito da 3 a 4 sedute di durata variabile, a seconda della grandezza del disegno e dei colori, con un intervallo di tempo tra la prima e la seconda di almeno 20 giorni, così da garantire il completo riassorbimento del pigmento, quindi tornare indietro si può. Il tatuaggio, però, non dovrebbe proprio farlo, per ragioni mediche, chi ha problemi di coagulazione del sangue, di insufficienza renale, l'assorbimento del pigmento può provocare danni, di allergie e i portatori di pacemaker non schermati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sara Ficocelli «Erano tutti pazzi per il tatuaggio, uno su tre, è pentito», da Venerdì di Repubblica del 3 giugno.